ne siamo completamente consapevoli. Quindi abbiate pazienza e non chiudete questa pagina, per favore. Era doveroso questo ritorno negli States. Le cose da provare sono tante, forse troppe. Quindi mettetevi l'anima in pace, perché non è detto che non ci torneremo una terza volta. Dunque, se all'inizio di questa avventura abbiamo provato un incredibile hamburger di pollo fritto, questa volta abbiamo scelto un panino altrettanto carico di sapore e condimenti, il cheese stick. Inizialmente avremmo voluto inserire il caro e vecchio hot dog, ma ahimè metà dei commensali non gradisce il wurstel. Quindi un valido, e forse più gustoso, sostituto lo abbiamo trovato. Questo capitolo ha avuto ispirazione durante la visione del nostro admin mentre riguardava Sex and the City, dove due delle protagoniste giravano per Manhattan mangiando hot dog, appunto. Quindi la scelta non poteva che ricadere nel cheese stick, vista anche la forma del pane simile. NB. Il panino viene chiamato anche Philly cheese stick, in quanto l'invenzione è da attribuirsi proprio a Filadelfia. Noi lo abbiamo inserito lo stesso, perché nel tempo è diventato molto diffuso nei chioschi su strada proprio come l'hot dog. Per i cocktail, invece, riproponiamo due evergreen come Long Island Iced Tea e il Cosmopolitan, inserendo altri due grandi classici come i Martini Dry e l'Orange Crush, inventato nel Maryland, vicino New York City. Lady Liberty chiede 15 euro per tornare a trovarla, quindi valigie alla mano che si parte. Un proverbio locale dice: All over the map. Si è perso il punto di vista. Grazie per l'ascolto.